Nella tomba mi voglio portare soldi ed erba, ma prima di andarci voglio uscire dalla merda. Spiegarti com'è che vivo non credo che serva. Mai presente un grammo, pensa ad una serra. Panico se afferra al serra. Manico rapido, sali sulla sella e scappiamo nel traffico in fretta della gazzella. Poi abbandoniamo il mezzo al primo angolo. Siamo giovani promesse del blocco. Passiamo e la gente si affaccia di sotto, si aggancia al lingotto, riabbraccia il ritorno del fra che manca. Va a darmi qualche giorno. E se volevi un passaggio ti rimando a casa. Sembra di essere allo stadio quando c'è la squadra. Fra lo sbirro passa piano e dall'alto ci squadra. Poi la moglie le facciamo la borsa di casa. Rappo per tutti i ragazzi del blocco. Anni di gabbia in tasca del giubbotto. Zombie di notte rimani nascosto. Mischiamo droghe con vodka e sciroppo. Mi sa che ci sei rimasto un po' sotto. Fumami in 30 dentro una casa finché non ci bussa la tipa di sotto. Conosco chi ti taglierebbe soltanto per farsi una grassa risata. Eppure chi sta ancora scontando gli anni e continua coi grammi il lavoro da casa. La neve in strada cortina da un pezzo. Nulla di nuovo continua da un pezzo. La raddoppiata col taglio perché vuole farle staccarla dal pezzo. Siamo 30 animali svaccati nel bel. E se pensi che scherzi mi spiace per te. Gine la cinta fra Gine e Moncler. Alti nel cielo sì come dei jet. Non ho mai chiesto aiuto a te, aiuto a te. No, solo ai miei, solo alla mia gang. Mille guai dentro questi jeans. Spero siamo ancora qui. Trap Kings. Vuoi giocare a fare il grosso, sei un grosso coglione. Non ho mai detto che buco, ma buco lo schermo con le mie parole. I fra nell'ombra di notte vedono cose, vendono cose. Tutto si muove al rallentatore. Faresti soldi la nostra missione. Sei la mia puttana, io il tuo protettore. Ti sei fatto un film. Ora puoi pure spegnere quel proiettore. I fra son di poche parole. Non perdono soldi neanche quando piove. No che non capisce normale. Ma ascolti, annuisci, ripeti non male. Stupiti di quanto da zero si possa partire. Da quanti in alto si possa arrivare. So ancora con chi sta male. Con chi si sbatte per arrotondare. Con chi era bocciati in mate. Ora fa più numeri di un cellulare. Siamo qua fuori tra sbirri e puttane. Qualcuno di noi è diventato importante. No. Qualcuno di noi se ne va dentro ad una volante. Siamo 30 animali svaccati nel bel. No. E se pensi che scherzi mi spiace per te. Gine la cinta fra Gine e Moncler. Alti nel cielo sì come dei jet. Non ho mai chiesto aiuto a te, aiuto a te. No, solo ai miei, solo alla mia gang. Guai dentro questi jeans. Spero siamo ancora qui. Trap Kings.